La fumetto card è la novità, diciamo, che esce in questi giorni, che racconta la storia dei fratelli Cervellati. I fratelli Cervellati erano due fratelli ciclisti di Calcara, quindi alle porte di Bologna, che insieme alla famiglia cosa facevano? Loro avevano un piccolo podere e davano ospitalità non solo ai partigiani, ma anche a chi cercava di scappare dall'arruolamento nelle milizie fasciste. Purtroppo questa cosa non passò inosservata, e i due figli, Idro e Irnerio, e il padre Carlo, vennero arrestati dai fascisti e dall'SS e deportati a Mauthausen, e da lì non hanno fatto purtroppo più ritorno. Noi abbiamo fatto questa figurina a fumetto come ciclisti perché soprattutto il più grande Irnerio era una grande promessa del ciclismo, aveva anche fatto gare, ne aveva vinte, ma purtroppo poi la guerra e poi dopo la deportazione hanno fatto concludere i loro sogni in bicicletta. La fumetto card dei Fratelli Cervellati è disegnato da Mabel Morri, che è una disegnatrice romagnola, tra l'altro impegnata anche personalmente con Ampi, che ha fatto veramente un lavoro egregio. Mentre invece per quanto riguarda il calciatore, questa è una riedizione di una figurina nostra che ha avuto tanto successo, è quella di Bruno Neri, calciatore partigiano, l'unico calciatore di Serie A partigiano, che è morto nel 44 in uno scontro a fuoco contro i nazisti. Lui era di Faenza e noi abbiamo fatto questa figurina. Bruno Neri è molto conosciuto, magari qualcuno non sa chi è Bruno Neri, ma tutti conoscono una foto molto famosa. Lui giocava nella Fiorentina e fu l'unico giocatore all'inaugurazione dello stadio di Firenze a non fare alzare il braccio e salutare i gerarchi fascisti. Quella foto si vede molto spesso su internet, una foto famosa di Bruno. Quindi insomma anche attraverso le figurine si può fare memoria. Sì, no, infatti la nostra prospettiva è proprio quella, l'obiettivo, ovvero di utilizzare questo metodo, perché sfido chiunque almeno una volta nella vita non avere aperto una bustina o ha fatto un album di figurine, per far passare anche dei messaggi, sensibilizzare su tematiche importanti attraverso il fascino immortale delle figurine. Tra l'altro sia quella di Cervellati che anche volendo quella di Brunelli sono collegate poi ad ANED, all'Associazione Nazionale degli Ex Deportati, che è una realtà con cui facciamo diverse cose. Abbiamo fatto anche altre figurine, abbiamo fatto quella di Carlo Castellani, che magari ecco i tifosi del Bologna, quando il Bologna va a giocare a Empoli, sanno che gioca al Castellani di Empoli, ma non sanno che dietro c'è la storia di questo bomber di Empoli, che nonostante per 70 anni è rimasto il capocannoniere della squadra toscana, purtroppo anche lui, per lo stesso identico motivo dei Cervellati, perché era antifascista, se ne è deportato e come Cervellati è un morto a Mauthausen. Come si può entrare in possesso di queste figurine? A Bologna è sicuramente più semplice, perché si può andare nella nostra sede, che è l'edicola Birra in via del Triumvirato, vicino quindi all'aeroporto, oppure sul nostro sito figurineforever.com, oppure ancora noi abbiamo un negozio eBay, Figurine Forever Official. Poi faccio un po' di pubblicità, permettimi: il 6 e 7 maggio c'è la fiera del fumetto di Bologna al Dimondi Festival, in collaborazione con Estragon, lì alla bellissima piazza Lucio Dalla, e quella è un'altra occasione per prendere le figurine.